7. Ascolta e controlla. 1. Ci prepariamo per la festa di compleanno della nostra amica. 2. Donatella si ferma alla stazione degli autobus per chiedere un'informazione. 3. Il nuovo impiegato si è presentato al direttore della ditta con un progetto interessante. 4. Le signore si mettono in abito da sera per la cena di gala. 5. Prima di lavorare in ospedale, Mariangela si specializzerà in chirurgia. 6. Se vuoi, ci incontriamo nella piazza principale per bere insieme un boccale di birra. 7. La professoressa si è dimenticata di spiegare, con parole semplici, il significato della parola psicoterapia. 8. Io mi sono addormentato sul divano invece di andare a letto. 9. Domani gli studenti devono ricordarsi di portare a scuola il libro di geografia. 10. Vi siete divertiti al concerto di ieri sera?